Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, tutti convocati, vi spiego subito il titolo, vi spiego subito questa novità, tutti convocati perché vorrei che tutti, ma proprio tutti quelli che amano, soltanto seguono lo sport, non solo i calciofili duri e puri, partecipassero a questo programma, come parteciperanno sempre campioni e personaggi di tutte le discipline. Ma poi tutti convocati perché lo sport, perché con lo sport, come sentite da questa base, secondo me bellissima, ci si può e ci si deve divertire. La rabbia non basta, o forse ne abbiamo mangiata e bevuta fin troppa. Allora, buon compleanno a tutti, a Franco Piattanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, un anno di tutti convocati. 247 puntate in diretta, un sacco di sport, di parole, di sorrisi. Devo fare gli auguri, un saluto da Antonio Conte. Quindi, mi raccomando, auguri. Gli auguri non si fanno, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, mi raccomando. I miei più cordiali in bocca al lupo e auguri di successo. Vabbè, sono 2 anni, vabbè, 2 anni, siamo ancora qui, miracolo, siamo ancora qui. 2 anni di Franco Piattanini, di Roberto Scaltretti, un po' meno di Claudia Schiattone, 1 anno di Pardo. Auguri, happy birthday to you. Tanto tra guarda Pier, tra 2 giorni rifacciamo tutta la manfrina, perché sono 498 puntate, quindi al mezzo migliaio tra 2 giorni ma chiaro. Si ricomincia, eh. Ma chiaro. Never ending party, mio caro. Never ending story, amazing place. How you doing, mate? Come stai? Tutto bene? Senti, questo stop di campionato, cioè caschiamo con le feste ovviamente nello stoppone del campionato, che mi sembra un po' come una cravatta sbagliata. Io avrei troppo voluto vedere nel weekend la seconda di campionato. Invece domani la prima della nazionale di Conte, Olanda in amichevole, mi interessa sì, ma un po' di meno. No, guarda, la pausa di settembre è una cosa, ma anche quella di ottobre, eh? Sì. Sono proprio due momenti drammatici. Due momenti drammatici. Tanto per essere autoreferenziale, visto che abbiamo parlato ieri, io mi sposo la seconda pausa, proprio perché anche come risposta alla crisi del campionato, allo stop del campionato, e alla crisi economica e alla crisi di vocazioni e tutte queste cose. Fare un weekend al mare, invece, mi sposo, perché è un tentativo disperato, insomma, porre fine. No, a parte le battute, però insomma sì, devo dire, la nazionale questa volta è un po' più interessante del solito. Sì. Tra l'altro in questo momento davanti al centro tecnico, la nazionale parte oggi alle 3:30 per Bari, domani c'è l'amichevole, insomma io credo che ci sia un po' di curiosità in più rispetto al solito. Sì, ma c'è di sicuro, c'è di sicuro, ma poi a Bari ci sarà lo stadio pieno, grande entusiasmo, Conte che torna a casa, e c'è mille motivi, la Bari che ha ricominciato a sognare. Quindi 39.000 biglietti venduti a ieri sera, quindi insomma no, sarà una atmosfera bellissima, e la celebreremo, ne parleremo, eccetera, però insomma, la pausa campionato. Anche un Sassuolo Chievo, insomma. Anche un Sassuolo Chievo, no? un Cesena Cagliari, una roba così. Ma sì, ma va bene tutto, è bellissimo. Pigliamo tutto. No, piuttosto sai cosa? Sono curioso di vedere i dati dei telespettatori, okay? Quelli dell'affluenza a Bari li conosciamo, sarà un bell'ambiente. Però sono curioso di vedere se Italia-Olanda a Bari amichevole fai 5 milioni, mi pare di aver letto così, di telespettatori della partita della pace. Con le pance e i capelli grigi di Baggio e Maradona, 5 milioni in una tiepida sera di fine estate, motivi tra i più vari, da palinsesti non particolarmente allettanti alla curiosità di rivedere in campo i Beatles e i Rolling Stones. Però il dato è impressionante, ci si potrebbe lavorare. Beh, ma sai, la partita dell'altro giorno non era solo calcio, la partita dell'altro giorno era veramente cultura pop. Sì. Al massimo livello, cioè, tu dici se Mick Jagger ha 71 suonati riempie gli stadi, può farlo ancora Maradona. Assolutamente, ma assolutamente, ed è una dimostrazione della forza incredibile del calcio, della trasversalità del calcio, perché è chiaro che la partita dell'altro giorno non aveva nessun interesse dal punto di vista del risultato e dal punto di vista strettamente tecnico, ma era una celebrazione di ciò che il calcio è oggi, con i suoi eroi, con i suoi campioni, con le sue epoche. e ovviamente anche con l'implicazione sociale socio-politica della lotta a tutte le guerre, della pace interreligiosa, quindi insomma con il Papa, insomma, sì. Io credo che sia fondamentale. Poi la rete ammiraglia, insomma, Rai 1, sappiamo, certo. per una specie no, di poi mistero, te, secondo io me. Sono dell'idea che c'è anche quel gusto perverso degli italiani di andare a vedere l'effetto che il tempo ha fatto su quelli che erano stati eroi storici, Maradona e Baggio, eccetera. Ma guarda com'è ingrassato, guarda che capelli grigi che ha, ma guarda com'è ridotto, guarda com'è conciato. No, ma questo senz'altro. Ma mia mamma sicuramente avrà detto questo, l'avrà guardato e avrà detto questo. Ma assolutamente, ed è appunto la sport di questo gioco. Tutto rispetto per le altre discipline, secondo me ci sono sport, per esempio a me la pallacanestra, faccio un discorso quasi blasfemo, la pallacanestra, il basket come gioco mi piace forse più del calcio, nel senso che una partita noiosa di pallacanestro secondo me è veramente impossibile da trovare, mentre il calcio ci possono essere delle partite anche molto noiose. Però quello che rende questo gioco incredibile è la sua forza, cioè se la mettiamo dal punto di vista proprio di fenomeno sociale, culturale, il calcio non ha limiti e confini, come cantava Mattini. Questa è la verità. E la dimostrazione è che la partita interreligiosa viene organizzata in un campo da calcio, in uno stadio da calcio, con questo gioco. Non viene fatto un match fra Federer, Lendl, oppure una sciata fra Tomba e Teni, perché siamo di fronte a qualcosa che non ha eguali nel mondo. Le motivazioni non le so, forse la semplicità di questo gioco, che si può giocare con i giacchetti come porte in qualsiasi spiazzo di qualsiasi angolo del mondo, basta un pallone. E mio padre mi racconta sempre che quando lui era bambino giocavano con la palla di stracci, che era una serie di stracci, e che questo ti fa capire che di fronte a che cosa siamo. Noi giocavamo con il super tele, quello che lo tiravi e finiva regolarmente nel giardino del vicino con i cani. Al Super Santos, che poi ha ispirato anche un'opera di Saviano, che non era male il Super Santos, se il pallone arancione quello. Come no? Perché aveva già una sua, insomma, dei requisiti tecnici dignitosi. Anche se per me la massima libidine era il pallone di cuoio bianco con cui si giocava nel campionato inglese. Perché da noi c'era quello con i rombi, certo, che a me non è mai piaciuto tantissimo. No, quello bianco con cui si giocava nel campionato inglese per me era una specie di trip erotico. Senti, dopo aver cazzeggiato amabilmente, magari poi dopo il traffico parliamo sul serio di nazionale di calcio di Milan, che sta prendendo tutti gli applausi del pianeta, non so se ha ragione o se ha torto. C'è Santiago che scrive su Twitter: la pausa alla seconda di campionato è come il traffico alla Zanzara, spezza il climax, ammoscia tutto, scrive lui. Ma perché c'è una sottovalutazione del traffico. Esatto, traffico, infatti noi lo adoriamo. Perché voi dovete immaginare, se uno il traffico lo vive così dal punto di vista solamente informativo, va bene. Ma invece bisogna immergerti, cioè se ti dice che c'è nebbia fra Cassino e uno chiude gli occhi oppure quindi, pensi musica all'autostrada del Brennero, no? Dove si entra nella valle dell'Adige verso le montagne, pensa un po' quello che ti pare, però traffico, prego. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Laia, tanti auguri a te. Ma non mi dire che è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Cosa devo fare? Soffiare, no? Un bel soffio grosso grosso. Tutti convocati. 1, 2, 3, 4. Sono 40. 40 anni? Mica li dimostri, sai. Lo so. Io ne ho 25. Neanche tu li dimostri. Grazie. Te ne davo 26. Noi di anni ne abbiamo soltanto due. Indovina che film è, Pierluigi? Sarà Sarà Innamorato pazzo, Asso, uno di quei film lì. Il bisbetico domato. Bravo, l'hai preso. Il bisbetico domato anno 1900. L'ho visto al cinema, credo. Anch'io. 1981. 80, grandissimo. 80. Applauso per Pardo. Ce l'abbiamo. Applauso. Alessandro su Twitter: auguroni, bello ascoltarvi in podcast mentre corro. Alessandro è in forma, a Mauri un po' meno. Prima ho visto una foto e c'è Scaltritti che ha detto: ma sembra Pardo. Grazie della fiducia. Mi fa piacere essere contato sempre al cospetto di qualcuno che a Mauri. Credo che possa già querelare Scaltritti, perché comunque peserà 30 kg meno di me. No, poi capello lungo, sai, camicia bianca, figo, eccetera. Non è un dispetto, insomma. C'è di peggio, dai. C'è di peggio, ma io sono abbastanza curioso sul Torino. Per me il Torino, io lo vedo bene, che ti devo dire. Io fossi in Cairo, lo dico proprio, punterei molto sull'Europa League. Io queste squadre anch'io, ma no, perché voglio dire, il Napoli e l'Inter e anche la Fiorentina possono avere anche ambizioni da piazzamento in Champions, giusto? Beh, ma una cosa non esclude l'altra, però, Pier. No, io fossi l'Inter, però punterei tutto, l'ho detto l'altro giorno, punterei tutto il possibile sull'Europa League a costo di fare qualche volta turnover in campionato, perché l'Inter è una squadra che può correre per il terzo posto, però diversa. No, fare una cosa diversa. Napoli, Inter e Torino ci sta, secondo me, che si possano gestire i loro gironi, la carta abbastanza facili, e fare del turnover per qualificarsi serenamente e poi riparlarne a febbraio e vedere dove sono in Serie A. Il caso del Torino, però, magari Cairo non la pensa così, è diverso, secondo me. Cioè, il Torino è una squadra, adesso i tifosi che vanno dall'ascolto possono toccare ferro, che secondo me non rischia, non può rischiare nulla, insomma, nel senso che e al tempo stesso però non credo che possa arrivare tra le prime tre. Quindi il massimo della stagione del Torino, lo dico senza offesa, è arrivare, riqualificarsi per l'Europa League. L'obiettivo, secondo me, sulla carta possibile, ma visto che la stai già facendo l'Europa League, secondo me è più divertente. È più divertente fare questo invece di pensare a quella dopo. Vediamo come ne pensa Pier. È anche più remunerativo, perché Pier, se tu vai avanti. Chiediamolo anche a Enrico Curro. Oh, ciur! Ciur, sono io, Pat. Ciao Ciur, come stai? Per una volta sono d'accordo con Pardo. Davvero? Questo è positivo, è clamoroso, è positivo e clamoroso. Sei d'accordo con Pardo da quale punto di vista? Dici Torino sul discorso del Toro? Sì, sì, dal punto di vista di chi, essendo tifoso del Genoa, ha vissuto in tempi ormai lontanissimi da tifoso appunto queste esperienze, ha sperato che la tua piccola squadra vincesse quel trofeo e poi non c'è riuscita, però insomma una stagione del genere, che tra l'altro fu quella in cui il Torino arrivò alla finale di Coppa UEFA. La famosa serie di Mondonico. No, ma veramente, ma io poi è chiaro che in un mondo ideale uno non fa calcoli, prova a vincere tutte le partite, però insomma, razionalmente parlando, è ovvio che ci possa essere una gestione. Secondo me le altre tre possono barcamenarsi, almeno nella prima fase. Poi secondo me ti rendi conto che comunque a febbraio sei lontano e non puoi vincere il campionato, allora a quel punto certo che devi fare forte sull'Europa League. Sì. Anche perché ci sono due esempi, Porto e Atletico Madrid, che negli ultimi anni attraverso l'Europa League hanno costruito poi... No, ma sicuro, ma immaginati una squadra come l'Inter che non è da corsa per il titolo e in Europa League può costruirsi una stagione intera. Mazzarino, oddio, non mi sembra l'allenatore più adatto per fare questo tipo di calcoli, però lo scopriremo vivendo. Ma Enrico Curro, volevo chiedere invece a proposito di Nazionale, visto che eri a seguirlo, la lezione di Conte com'è stata? La lezione di Conte è stata abbastanza divertente, perché soprattutto quando ha mandato qualcuno di noi alla lavagna, insomma, non è che abbiamo fatto una grandissima figura. Cioè, diciamo che forse sembrava quasi che lui lo facesse. Venite, che vi faccio vedere come quando il professore ti chiama alla lavagna e fai la figura del somaro. Ecco. Non lo sei preparato, ecco. No, però questo è un nuovo corso anche di comunicazione per Conte. Sta succedendo esattamente quello che mi aspettavo. Cioè, Conte, vabbè, vediamo quanto dura, però, perché no, per ora. Ma sì, ma dura, ma c'è un girone ridicolo. Diciamo la verità, diciamolo apertamente. Il girone non qualificarsi per un europeo a 24, fra l'altro, ecco, l'europeo a 24 forse è un po' troppo, È un po' difficile, sì, bisogna impegnarsi. Forse è un po' troppo, ma poi lui è bravo. Sono convinto che adesso contendo di voi che avrebbe voluto far bene in Brasile, perché poi alla fine, e di questo secondo me è convinto anche lui, con un po' di disciplina in più, con un po' di organizzazione in più, cioè dal punto di vista tecnico non è che fossimo così distanti, sì, sicuramente eravamo distanti dalla Germania, ma insomma si poteva andare avanti. Ma allora lo penso avanti. Anch'io. Lo penso anch'io, tanto che non condivido gli strilli e gli strepiti che si fanno sull'assenza totale, sul vuoto profondo e pneumatico di giocatori italiani. Io questo discorso lo condivido comunque e sempre fino a un certo punto. E lo ma diciamo anche loro. Stanno peggio, tu dirai, vabbè, in Inghilterra stanno peggio, ma non è che da altre parti sono, insomma, navigano nell'ora. Poi non mi sembra una generazione di giocatori questa, con, ricordiamo, l'Under 21 vice campione d'Europa, particolarmente sfigata. Non lo so, sarò ottimista io. Enrico, è vero che è un nuovo corso per Conte, ma è un corso opposto rispetto a quello che era solito tenere, no? Con la Juventus. Con la Juventus, muro, tutti contro di noi, noi contro tutti, tutti ci odiano e ci facciamo odiare volentieri. In nazionale, tra un po', apre le convocazioni a suffragio universale. Beh, vediamo, aspettiamo un attimo. Certamente le premesse sono queste, ma anche il ruolo è diverso, per cui il ruolo del CT è un ruolo più ecumenico, che evidentemente impone anche un tipo di comportamento del genere. Tornando al discorso di prima, quello che diceva Carlo è giustissimo, però c'è un dato: l'Italia al mondiale, che anch'io non l'ho visto così distante dalla mediocrità della maggior parte delle squadre, per cui sarebbe potuta anche andare più avanti, però ha segnato, quanti gol ha segnato? E questo è il problema dell'Italia, non è che ne abbia presi molto, ma ne ha fatti due in tre partite e si riparte da qui. No, soprattutto non ha mai tirato in porta nelle ultime, ha fatto due tiri nelle ultime partite. Esatto. E questo, Conte riparte da questo e lo sa benissimo, quindi diciamo che la ricerca anche di un po' di indulgenza nasce dalla consapevolezza che in alcuni reparti e soprattutto in alcune fasi del gioco l'Italia è carente. Sì. Nasce secondo me anche, io ho un po' parlato con lui e penso di aver capito che lui avesse una gran voglia, dopo anni in trincea, di un ruolo un po' più ecumenico. Io credo che una delle cose che poi alla fine l'ha colpito e l'ha convinto è stato, da un lato, il fallimento fondo di chi è arrivato prima di lui, nella famosa dichiarazione post Roma Juve che a tanti avevano fatto pensare addirittura al Milan, perché lui aveva dato l'idea di volere una realtà da ricostruire, e poi alla fine non c'è andato così distante, perché la nazionale in questo momento è veramente tabula rasa, ripartire da zero con un materiale umano che è molto relativo, ovviamente anche abbastanza povero. Però io sono convinto che con l'organizzazione, la motivazione, ecco, il martello, ecco, agghiacciante, tutta questa cosa qui, io sono convinto che questa squadra gli dà una bella assettata. Sì, intanto Verratti riparte dal pino, cioè dalla panchina, domani, mi pare, Enrico. Boh, aspettiamo, perché pure questo, sì, in teoria sì. Però da quello che so, per esempio nell'ultimo allenamento, tra le varie prove, c'è stata anche stamattina una prova di Verratti centrale al posto di De Rossi, che non significa assolutamente niente, ma significa che non dobbiamo dare per scontato nulla. E Verratti è stato tra i più catechizzati in questi giorni, proprio perché evidentemente, voi lo conoscete anche meglio di me, Conte è un allenatore che se sgrida o se si impegna particolarmente a gridare un giocatore, lo fa perché crede in lui. Evidentemente crede se Verratti possa fare quel ruolo di futuro Pirlo, e questo comporterebbe peraltro probabilmente un arretramento di De Rossi a centrale. Certo. Grazie Enrico, buon lavoro. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie. C'è un consiglio di Michele a Cairo, lo vuoi sentire? Pierluigi? Sì, sì, sono qui. Ci sono, giuro. Michele, pronto? No, ormai ho il panico. Ci sono, eccomi qua. Eccolo, c'è un consiglio di Michele a Cairo, consiglio di mercato. Consiglia a Cairo di comprare me e te e fare tutti i convocati sulla 7 alle 20:30 per due ore tutte le sere. Borsa! Telemercato! Chiamate la castorina! Borsa! Lo vedo come lo vedevo la Juve. Idee molto chiare, esprime e trasmette concetti senza possibilità di essere frainteso. E credo che alla fine noi giocatori spesso e volentieri abbiamo bisogno di questo tipo di guida. Ecco. Lo vedo veramente bene, lo vedo sereno e lo vedo energico al punto giusto. convocati. Questa l'ho fatta io per te con le mie mani. Tanti auguri. Perché? Oggi che festa è? È il tuo compleanno. Ah, porca miseria, me ne ero scordato. Compleanno di tutti i convocati, 498 puntate, beh grazie a tutti voi, 800 24 00 24 se ci fate gli auguri in diretta, ci piace anche di più. Magari il tema, la nazionale che vorrei. Ieri hanno parlato in diversi, a cominciare da El Shaarawy. Penso che loro siano due allenatori che curano molto l'aspetto mentale, non solo quello tattico e tecnico, che lavorano molto sulla testa dei giocatori, sono due motivatori anche, e quindi credo che possano fare veramente bene entrambi. Cercano di trasmettere al gruppo molta, molta voglia e molta, molta carica. Ovviamente il soggetto sono Filippo Inzaghi e Antonio Conte. Sentiamo anche Zaza, uno dei giocatori più attesi. Adesso che sono qui lo vedo, diciamo, come un punto di partenza, perché vorrei affermarmi, ecco, tra i più forti attaccanti d'Italia. Sì, voglio diventare tra i più forti attaccanti italiani. Poi se diventerò più forte non sarebbe male. Beh, buona dichiarazione di intenti. Da questi due passiamo a Torres, che invece ieri è stato presentato dal Milan. Todos hemos conocido a Inzaghi como jugador. Empieza su etapa en los banquillos de la Serie A, como vimos el otro día, con mucha pasión, mucha ilusión y muchas ganas. Lo que él hacía en el campo, ahora lo hace desde el banquillo. Y al ser un número 9 tan importante en el mundo del fútbol, estoy seguro de que va a saber sacar lo mejor de mí, que voy a aprender muchísimo de él. È il numero 9, così sarà il Niño. Mi chiamavano Niño quando ero piccolo, mi chiamano ancora Niño adesso che ho 30 anni, Pierluigi. Grande entusiasmo al Milan. Bastata una partita operaia ben eseguita, una corsa di Inzaghi ad esultare. L'arrivo di un centravanti al momento in declino, attendiamo riprove, cioè quello che abbiamo sentito parlare ora, e all'improvviso tutto sembra rifiorito. Esattamente così, è una concatenazione di piccoli eventi, però molto, molto continui. E alla fine la percezione di un mercato interessante. Io sono abbastanza ottimista sulla stagione del Milan, penso che farà bene. La partita con la Lazio, chi lo sa, è stata una partita, come hai detto tu giustamente, anche operaia, con il gol dell'1-0 che è arrivato in contropiede perché la Lazio ha provato a partire forte. E forse ha peccato l'ingenuità e sicuramente dietro ha mostrato delle lacune enormi. Il Milan ne ha approfittato nell'ultimo quarto d'ora, poi ha rischiato di casinarsi la partita nuovamente. La Lazio ha giocato molto bene nell'ultimo quarto d'ora finale, è mancato il gol. Insomma, non mi è sembrata una cosa abbagliante dal punto di vista proprio della qualità. Sì. Però era una partenza, innanzitutto una partenza contro una buona squadra. E poi è arrivato questo arrivo di Torres, c'è stato l'arrivo di Torres, e poi c'è stato Van Ginkel. Poi quando ti aspetti, quando insomma, hai pensieri cupi per tutto questo tempo, insomma, vedi che la squadra gioca la sua onesta partita, che è convinta, corrono, segnano tre gol, vincono la partita. Para, il portiere para, un portiere che para. Alex e Menes, secondo me, sono due ottimi acquisti a parametro zero. Sì. Erano stati fatti all'inizio del mercato, ma sono veramente ottimi acquisti. Alex è proprio è stato un giocatore di alto livello e lo è ancora. Secondo me può andare avanti. Non velocissimo, secondo me, come no, ha bisogno di un compagno di reparto bravo nei recuperi. Lui, di testa le prende tutte lui, ha fatto un po' di recupero. A me, Alex, insomma, sarei stupito se dovesse fallire. Sono convinto che sarà il titolare fisso del Milan e poi magari il secondo girerà. E Menes mi sembra che abbia affrontato la stagione con voglia. Menes è un giocatore in Italia, conosciamo sì. I tempi della Roma, è il classico giocatore abbastanza umorale, un po' la Vucinic, che se si sveglia bene e ha voglia può fare cose eccezionali. se si incubisce come è successo l'anno scorso al Paris Saint Germain, te lo scordi e lo lasci marcire in tribuna, no, questo sicuro. Poi bisogna, no, giocatore anche abbastanza senza ruolo, l'idea del falso 9 non è male, vediamo se avrà un seguito, non credo con l'arrivo di Torres naturalmente, però può essere un'idea, una soluzione. Vorrei parlare con qualche ascoltatore, Pier, e poi fare un discorso a parte su El Shaarawy. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. No, io volevo parlare del calcio mercato, cioè, non capisco com'è l'Inghilterra che spende, cioè, di più della somma di tutte e tre i campionati Italia, Spagna. 1 miliardo di euro. Sì, cioè, ma pure cioè, dei valori di giocatori. Che ne so, l'ultimo del Napoli, ad esempio, Lopez, valutato 250.000 euro l'anno scorso, è stato acquistato per 5 milioni, sì. Tante 6 milioni al mese. Beh, perché in Inghilterra per diverse ragioni i quattrini li hanno. Uno dei motivi, e Pierluigi lo sa benissimo, è quello della eccellente commercializzazione dei diritti televisivi sui mercati esteri, quindi la vendita dei diritti televisivi all'estero, che alle squadre italiane fruttano poco o niente, mentre le squadre inglesi fruttano un sacco di soldi che vengono ripartiti in parti esattamente uguali tra tutte le partecipanti alla Premier League. Sì, e poi c'è il merchandising, che da noi è ancora una voce marginale, che da loro invece è qualcosa di molto importante. Il merchandising ha un impatto. Quando noi abbiamo sentito parlare del nuovo contratto di Agnew col Manchester United, c'è un paragone con quello che prende la Roma in Italia, che porto sia 20-1. Eppure la Roma giustamente è contenta perché ha chiuso con Nike, ha dei potenziali di crescita e anche dei bonus. Sì. E quindi, insomma, però questo vi dà l'idea, cioè Manchester United quest'anno che non fa la Champions League e nemmeno l'Europa League, però per la sua storia è riuscito a strappare un contratto di questo tipo ad Adidas. In Italia Nike e Adidas spendono molto meno, e questo non è che perché ce l'hanno con l'Italia, sono filo inglesi, è perché in Inghilterra non c'è una maglietta tarocca, e adesso mi dispiace dirlo, perché poi io, così praticamente diciamo la conseguenza è che uno debba spendere guarda Piero, secondo me è anche una questione culturale, cioè nel senso che da loro è un must avere la maglietta della tua squadra originale, eccetera eccetera, e detto questo ogni anno te ne infinocchiano una e quindi tiri fuori i tuoi 100 sterline, euro, quello che vuoi. In Italia storicamente non è una cosa così decisiva. Cioè, ma infatti, però voglio dire, questa è una fonte di ricavo che da loro pesa e da noi no, c'è poco da fare. E poi ci sono gli stati di proprietà, e poi i diritti televisivi all'estero vengono venduti molto meglio. Insomma, ogni volta bisognerebbe capire che se non ci arriviamo, per esempio, per sensibilità, che ogni volta che si tira un sasso dentro uno stadio italiano o si fa del male a qualcuno si sta farsi del male fisicamente, lo si uccide perché il calcio italiano perde appeal. Siccome qui parliamo di divertimento, voi vorreste andare a vedere il concerto dei Rolling Stones o il concerto di un artista di serie B? Volete andare a vedere i Rolling Stones, quindi siete disposti a pagare l'impossibile. E questo è quello che succede in Asia, questo è quello che succede in America, e quindi questi soldi, questo meccanismo fa sì che poi abbiano il doppio o il triplo dei nostri soldi, certo. E che i giocatori migliori vogliono andare lì. Per cui finché noi non invertiamo questa cosa, e la possiamo invertire soltanto con una legge sugli stadi che possa favorire la costruzione o comunque l'acquisto da parte delle società in una maniera adeguata, finché non risolviamo il problema della violenza, non riduciamo il problema della pirateria, delle maglie, sì. Non andiamo da nessuna parte. Mi sembra una strada lunghissima, non so se ne vedremo la fine. È lunga, quello che ci può salvare è che il calcio comunque ha dei suoi elementi di imponderabilità, e quindi voglio dire, noi l'ultima vittoria di una squadra italiana in Champions League del 2010, magari la ruota gira e può girare anche prima di quello che razionalmente uno sarebbe portato a pensare. Però finché noi poi non facciamo le riforme strutturali, so che sembro uno di Confindustria o di sindacati, da come parlo, sembro Barisoni. Sembro Barisoni, però è quello, finché tu. Perché questo l'ha detto Moratti. Guarda, Moratti l'anno scorso, quando stava per lasciare a Toir, l'ha detto proprio chiaramente: ha detto, non siamo stati in grado di sfruttare la vittoria del Champions League come una creazione poi negli anni futuri di valore. quella. Beh, ma guarda, non soltanto lui, cioè voglio dire, è un problema del calcio italiano. Ma ti ripeto, secondo me la soluzione noi non arriveremo a vederla, perché, ma perché non ci sono segnali, perché non c'è questa, non c'è questo trend. Io non percepisco questo trend. Poi è tutto vero, tutto sacrosanto, ci mancherebbe altro. Convocati. Palo sinistro! Del palo incredibile! C'è Davide su Twitter che ci accusa di essere la causa, vabbè, già esagerato, della crisi italiana per due ore tutti fermi ad ascoltarvi. Vabbè. Esagerato. Invece, se sei stato attento sul traffico, io vorrei fare oggi la mia coda, la coda preferita. Cioè, ogni volta, perché adesso c'era una coda sulla 9, no? La Inate come chiama. Sì. C'era una coda a Napoli e una vicino Vipiteno, quindi sulla 22. Quindi. A tu in sindaco, dove vorresti essere in coda? A Vipiteno, io a Vipiteno. A tu? Vipiteno. Tu no? No, io in tangenziale a Napoli, però anche Vipiteno lo sto facendo. Ah, no, Vipiteno... Ma anche la 9, insomma, però... Vabbè, deve scegliere una, non è che possiamo pigliarci tutte le code che ci sono in giro. Perché ho voglia di mozzarella poi alla fine, quindi penso che questa coda potrebbe essere ripagata. Malefico Piantanita, sai cosa ha detto? Sai cosa mi ha detto l'interfono? Mandateci le foto delle code su Twitter. Benissimo, no, ma adesso perché io mi sono stufato di questa campagna di cruciali, tipo anche l'altra sera il traffico, quindi mandateci le foto delle code, ovviamente occhio. Il traffico è vita. Adesso qua verso l'isolotto. L'isolotto a Firenze, vicino al viadotto dell'Indiano, c'è un po' di coda, cioè non è una coda esagerata, ma un filo. Quindi diamo anche informazioni che nella viabilità normalmente non ci sono, quindi state con noi anche per questo, perché vi aggiorniamo su nuove code, nuove casini in giro per l'Italia. La tua, così, questo è proprio così, esatto. C'è entusiasmo, come hai detto Luigi. C'è entusiasmo. Matteo, provincia di Modena. Prima o poi ci rinchiudono, altro che entusiasmo. Matteo, buongiorno. Buongiorno, salve. Ma io volevo intervenire una cosa che non c'entra nulla con la nazionale, un po'. Volevo solo ricordare i 25 anni che non c'è più Scirea, un'intervista che ho letto, che lui, diciamo, una sera festeggiando uno scudetto della Juve, tornò al mattino alle 5:30 e quasi disse che provò vergogna vedendo la gente che andava a lavorare, ecco. Per capire l'umiltà e quanto servirebbe nel calcio odierno una persona del genere, certo. Magari una banalità, però no, ma fa bene, però guardi, sono contento che ricordo di, molti certo. Ce l'hanno chiesto via sms, un ricordo da Scirea, che vuoi dire, mi fa piacere che sia stato un ascoltatore a ricordarlo, ed è secondo me perfetto così, perché, no, è perfetto così. Io credo che la considerazione subito successiva è se è cambiata la società, se è cambiato il calcio, se ci sarebbe posto per uno come Scirea oggi. Io odio il passatismo, cioè odio quelli che dicono che le cose andavano tutte male. Io anche. Quindi io penso, e tra l'altro io penso che ci siano ragazzi anche nel calcio di oggi di straordinaria sensibilità. Sicuramente la forchetta tra lo stipendio dei calciatori e delle persone normali oggi è aumentata molto, e questo ha provocato degli effetti collaterali, perché insomma si rischia di perdere in certi casi proprio la percezione della realtà. Però io poi posso dire per la mia esperienza che sono i calciatori che invece hanno una loro semplicità e una loro normalità, nonostante tutto, nonostante i soldi ce ne sono. Poi anche Scirea forse ce n'era uno, forse ce ne sono 10 nella storia del calcio con quel tipo di sensibilità. Sicuro. Stavo leggendo invece di un altro giocatore, non è Scirea naturalmente, ma è un eccellente difensore, De Vrij, che ha problemi con la lingua, perché prova a parlare con i suoi compagni sia in italiano che in inglese, chiede ai compagni di parlare sia in italiano che in inglese, ma vedo che difficilmente mi danno retta. Cerco di imparare, ma insomma, quando devo tradurre concetti complessi nella mia testa non è facile. Parlo in inglese, oh, ma che stai a dire? Guarda, io sono convinto che De Vrij sia un buon giocatore. Sì, io sono convinto che abbia fatto un bel colpo. Fra l'altro è arrivato nei giorni immediatamente successivi ad Astori, che a Roma era stato una specie di caso, perché la Lazio l'aveva cercato per un mese, Riero Sabatini si è preso, in qualche modo sembrava quasi uno sgarbo. Io sono convinto che De Vrij sia buono e non è quello che abbiamo visto l'altro giorno. Quindi no, ma di sicuro, ma dai, non... ma come... Però certo, ha iniziato male. Ma sì, ma ha iniziato male, però è un giocatore che bastava guardarla ai mondiali, è stato uno dei migliori difensori del mondiale, poi un periodo di adattamento glielo concediamo senza problemi, anche perché mi sembra un giocatore che non abbia... senza grandi difetti, è fisico e tecnico, è bravo nelle chiusure, quindi mi sembra un eccellente acquisto per la Lazio. Alessandro da Modena, mentre c'è Ale da Sinigaglia che preferisce invece la coda a Nogarole Rocca, ma questi sono è solo questione di gusti. Oggi non c'è, però a lui piace quando c'è. A lui gli piace quella. Amici in zona, andare tutti a Nogarole. Alessandro invece, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Volevo sfruttare la competenza del signor Gente, del dottor Pardo, per una curiosità legata alla Coppa del Mondo e una cosa che riguarda la Juventus. Allora, domanda sulla Coppa del Mondo. Io ho sempre sentito dire da 45 anni, ovvero da quando sono nato, che la Coppa del Mondo rimane alla prima nazione che per prima la vince per tre volte. Infatti nel 70 la Rimé è rimasta al Brasile, dal 70 in su la Germania è stata la prima nazione che l'ha vinta per tre volte. Sì. D'ora in poi la Coppa, questa dorata Coppa del Mondo FIFA, che è stata fatta tra l'altro da un italiano che si chiamava Gazzaniga, rimane alla Germania in bacheca e ci sarà una Coppa nuova, oppure sono cambiate delle regole? Curiosità, anche perché un affetto di questa Coppa mi lega agli inizi di quando guardavo il calcio. Sì. Sono domanda da trivial, Pardo. Sono cambiate da quello che mi risulta, se ne parlò proprio all'immediata vigilia della finale. Sì. La Germania non se la tiene, cioè si tiene la coppa intesa come trofeo per averlo vinto tre volte, se ne tiene tre, se vuoi, ma non cambia la coppa, cioè non ci sarà adesso la coppa Genta. 2018, anche se tutto sommato potremmo anche spingere per questa ipotesi autoreferenziale. Sì, rimane la coppa della FIFA. Qualche anno fa ho intervistato, era ancora Sky, ho intervistato in zona Milano, in zona Tortona mi pare che abitasse lo scultore. Sì. Insomma, è bello sapere che anche lì c'è un pezzo d'Italia, anche quando non lo diciamo possiamo consolarci. No, ma questo lo sappiamo, la coppa, poi questo discorso delle coppe te la danno, poi la devi restituire, ti danno la coppia, cioè il fake, come piace dire a quelli giovani, così è. Prima di Stefano da Fermo e Gaetano da Padova, però volevo fare un discorsetto con Pierluigi su Esharawi. Nell'ambito del grande entusiasmo milanista c'è anche un grandissimo entusiasmo nei confronti di Esharawi, che domenica ha giocato una splendida partita, ha fatto una delle cose più belle della domenica con quell'assist esterno, sappiamo tutti. Sembra all'improvviso sia tornato e magari sparito un po' per colpa di Barotelli, questo pure in azzurro. Stiamo parlando però di un giocatore che ha giocato l'anno scorso, nello scorso campionato, 216 minuti. Non è un po' prestino? Sì, è presto, fra l'altro è presto anche perché io l'anno scorso all'Audi Cup, torneo estivo a luglio, l'avevo visto benissimo, c'era un grande entusiasmo, il gol ai Joven all'inizio della passata stagione, poi è iniziato il calvario, per cui veramente per scaramanzia per questo ragazzo che rappresenta tanto per il calcio italiano, secondo me potenzialmente, anche perché detto fra di noi, senza che sembri blasfemo, ma ci libera dalla balodipendenza, cioè noi abbiamo secondo me oggi delle prime punte di tipo tradizionale comunque buone, come Destro, come Immobile, sono giocatori comunque affidabili che cresceranno negli anni. El-Sharawi è un giocatore che ha caratteristiche ovviamente diverse e che secondo me se sboccia ci può togliere da rimanere appesi dalla mattina alla sera agli sbalzi d'umore di Balotelli, al quale auguriamo ovviamente che gli sbalzi d'umore diventino sempre di meno e la continuità di più. Sì. Però ecco, con un El-Sharawi diverso forse anche già questo mondiale sarebbe stato diverso, perché non avremmo avuto questo biglietto della lotteria che non sai come si sveglia, se si sveglia bene o se si sveglia male, su cui dover contare. Però insomma ci andrei piano. Anch'io. Per pura scaramanzia, ma perché è veramente molto presto. Non mi sento assolutamente di attribuire colpe a qualcuno del mio calo. È stato un calo anche più mentale che tecnico, perché comunque arrivavo da 16 gol in campionato e un giocatore a 20 anni ci può stare che abbia questo, questo calo qui, però io credo che abbiamo fatto anche delle buone cose, perché se siamo arrivati in Champions sicuramente abbiamo lavorato anche bene, io e Mario con tutta la squadra. Ci può stare, o magari anche no, ma poi non vedevo dal punto di vista tecnico e tattico alcun problema di coesistenza tra Sciarau e Balotelli, che peraltro andavano anche d'accordo, certo, tra di loro, quindi non mi sembra del tutto casuale. Sciarau ha perso la strada e ha avuto un sacco di infortuni. Forse ne parlavamo ieri, gli infortuni hanno inciso, che lui sia amico di Balotelli è fuori discussione, però si può essere amici, ma magari tecnicamente non ti fa del bene, oppure semplicemente delle attenzioni che lui aveva avuto in quei mesi l'avevano portato a galvanizzarsi ulteriormente. L'arrivo di Balotelli, togliendogli i riflettori, magari gli ha tolto un po' d'adrenalina, un po' di se stesso. Cioè, non è che per forza ci debba essere una rivalità o un odio fra due persone perché uno dei due possa risentirne. Magari è semplicemente l'arrivo di uno che è amico tuo, che però finisce per toglierti qualcosa che non sai magari neanche che cos'è e che ti porta a essere meno brillante. Sì. Il fatto che l'ultimo gol 2 anni fa l'ha fatto il 24 febbraio nel derby contro l'Inter, non segnò più, poi ci fu l'estate, il gol contro il PSV Eindhoven all'inizio della stagione scorsa, e poi è cominciata una partita. Poi è sparito per molti infortuni, anche se questo discorso non è facile reggere la pressione di fare tutti quei gol a 20 anni, lo condivido fino a un certo punto, perché ci sono giocatori che a 20 anni sono già dei giocatori da 20 gol a stagione. 20 anni non sono pochi, ma non pochissimi. Stefano da Fermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Un saluto a tutti. E volevo rientrare un po' sul discorso che avevate fatto ieri. Capisco che voi dovete fare del giornalismo e dovete anche dare delle valutazioni che sono comunque soggettive più che oggettive. Certo, mi riferisco alla campagna acquisti del Milan e all'operato di Galliani, che al di là di quello che si voglia dire sia da tifoso milanista che da non tifoso, credo che rimanga in assoluto uno dei direttori degli operatori del settore più bravi, è uno dei dirigenti sportivi più bravi che ci sono, questo non c'è dubbio. Sulla campagna acquisti del Milan, inutile aggiungere altro. Il Milan sono anni che fa la campagna acquisti a zero soldi, e da questo punto di vista Galliani ha qualche volta fatto dei ricamini assolutamente apprezzabili. Ciao Pierluigi. Sì, volevo dire 20 secondi che secondo me questa di quest'estate è molto ben riuscita. Secondo me ha preso tanti parametri zero, ma ha preso dei giocatori in massima parte ancora nel vivo della loro. Sì. Cioè non è andato a prendere il vecchio nome solo di copertina, ha preso gente come il portiere, come Alex, come Menes, che secondo me è ancora nel vivo e può dare ancora. Sono funzionali, magari al momento non sono giocatori che ti permettono di lottare per i massimi risultati, non ha preso giocatori che ti cambiano la squadra, che come poteva essere Ibrahimovic, però concordo su questa valutazione. Ci sentiamo domani, Pier, ciao. Ciao, buon compleanno. Tutti convocati. Oh, 498 puntate. Basta. Cose a caso. Roby, tu 2 anni fa dove eri? Qui seduto davanti a me. Io dove ero? Qui seduto davanti a me. Claudia Schiattone dove eri? Stavo studiando. Aveva 2 anni, come tutti i convocati che oggi compie 2 anni. Vabbè, siamo. Sono pure laureata con Gento. Vabbè, questa è la. Ecco, con questa chiuderei la puntata. 498 volte, grazie a tutti, grazie Frank. Potevamo grazie fare Claudia. 500 però oggi. Sì, ma dobbiamo dire chi siamo. Tu sei Roberto Scaltritti in regia. Tu sei Franco Piantanida, l'autore di questo programma. Io mi inchino. Noi ci chiamiamo tutti così ormai. Franco Piantanida, autore. Di questo programma, questo è il nome e cognome completo. Claudia Schiattone in redazione o in regia, dipende da quando Carlo si confonde o no. Oh, auguri anche a Giovanni Capuano e Giorgio De Luca, tutti convocati weekend. È un regalino anche a loro, fateglielo. Dai Carlo, adesso apri il microfono e vai. È bellissima. Questo è ciò che succede. Ringrazio ovviamente Franco Piantanini, Roberto Scaltritti, Claudia Schiattone e tutti gli altri. Questo è ciò che succede ogni giorno dall'altra parte del vetro. Vedete voi come sto messo. No, sono bravissimi. Senza di loro non saremmo qui. Mi è piaciuta, lacrime a fulmini. 2 anni di tutti convocati, 498 puntate. O come minimo fateci gli auguri in diretta. 800 24 0024 è il numero verde. Gaetano, grazie per l'attesa. Oh, grazie a voi. Intanto auguri per... Grazie. Insomma, ecco, e vorrei proporti un ragionamento su questo. Non c'è di tutta, no? Se lo sento. Purtroppo devi avere lo stesso cellulare di Pardo, mi sa. Gaetano? No, sono qui. Dimmi. Pronto? Pronto? Prova a ripetere. Eccomi, sono qua. Vorrei proporvi un ragionamento sulle scelte di Conte, no? Cioè, la novità sarebbe quindi lasciare Balotelli a casa. Allora io faccio una semplice considerazione. Può darsi che Zaza possa essere un buon sostituto, ma chiamare Quagliarella, che non ha fatto una partita l'anno scorso con la Juve, il cui esordio non mi sembra che sia stato esaltante nel Torino, mentre invece a Liverpool ha fatto molto bene Balotelli. Allora io la ritengo non un'azione pedagogica, ma quasi un'umiliazione. Se io fossi Balotelli rifiuterei qualsiasi chiamata in nazionale. Ma no, mancherebbe anche quello, Gaetano, mancherebbe anche quello. Io dico che Balotelli a 24 anni ha superato i 100 gol, quindi se tanto mi dà tanto, anche quest'anno farà i suoi 15-16 gol. Quindi se sarà richiamato, qual è la genialata di Conte? Chiamare uno che fa 20 gol, 15 gol a stagione? Ma avrei i miei dubbi. Ma questo è il mio ragionamento. Non credo che Balotelli sia fuori dalla nazionale, Conte non l'ha mai detto. Ha detto che parte alla pari di tutti gli altri per diversi motivi, credo, che ieri abbiamo provato a spiegare. Così l'ha tenuto fuori da questa convocazione a una giornata di squalifica, non dimentichiamolo. C'è stato tutto il discorso relativo allo sponsor tecnico, quindi così nei meandri di questa scelta può esserci anche la decisione di Conte di non ostentare questo legame con lo sponsor, che è lo stesso che gli paga gran parte dello stipendio, che paga Balotelli per mettere scarpe di due colori diversi, e quindi quasi una scelta di emancipazione. Questa può essere una spiegazione magari un po' trasversale. Può esserci anche la volontà di accontentare una parte dell'opinione pubblica. Non credo che Balotelli finirà definitivamente fuori dai giri di questa nazionale, credo però che dal punto di vista caratteriale non sia esattamente il giocatore ideale per Antonio Conte. Poi il resto lo vedremo. A guardare la questione così in maniera prettamente calcistica, è difficile dare torto a Gaetano da Padova, che ringrazio. Facciamo un salto a Flash in mezzo, voglio parlare un po' di tennis. C'era tanto vento, però non penso, c'era per tutte e due, quindi non... almeno a tutte e due penso piace giocare col vento. Lei, Carolina, è una giocatrice molto intelligente, quindi anche col vento non ha problemi, non è una di quelle che tira molto forte a favore o contro, sa gestirlo il vento, quindi è stata brava anche sotto quell'aspetto. Male Sara Errani purtroppo nei quarti di finale, due le italiane arrivate ai quarti di finale dell'ultimo slam della stagione, una Sara Errani ha giocato ed ha perso senza attenuanti, 6-0, 6-1, non cerca giustamente scuse, Wozniacki più forte di lei e adesso aspettiamo la pennetta. Barbara Rossi, voce Eurosport, che trasmette in esclusiva quest'ultimo slam stagionale, ciao Barbara. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, mai in partita Saretta, No, purtroppo mai in partita. Wozniacki è stata decisamente superiore in tutti i frangenti, soprattutto fisicamente. Poi l'abbiamo anche detto durante tutto il torneo, Wozniacki si allena anche per questa maratona, con la corsa, sembra che fisicamente non sia mai stanca, e ieri è sembrata troppo più forte della nostra Sara, che purtroppo è arrivata ancora nei quarti, e questo non è poco, però non è riuscita proprio a trovare una soluzione per creare qualche problema alla danese. Errori da parte della Rani? Oppure semplicemente una resa ad un'avversaria più forte? Però 6-0-6-1 è tanta roba. Ma all'inizio ha fatto qualche errore, perché è andata a cercare proprio il colpo più forte della danese, il rovescio. Poi probabilmente si è sentita un po' stanca, non aveva le energie per allungare i propri colpi, il vento forse le ha dato più fastidio di quello che doveva, e quindi il primo set è andato via liscio così, senza riuscire proprio a fare nulla. Poi nel secondo ha provato ad essere un pochino più attaccante, è andata alla rete, ha fatto qualche punto, ma anche lì è durata poco quella voglia di essere più aggressiva. Ma ripeto, la Wozniacki era superiore, quindi non c'era molto da fare ieri. Non c'era molto da fare. Adesso Flavia Pennetta, nella notte, Serena Williams. Sto leggendo questo titolo sulla Gazzetta dello Sport, questa dichiarazione di Martina Hingis, ex grande regina del tennis, che gioca nel doppio con Flavia Pennetta. Se servi bene batti Serena, ci credi? Allora sì, se servi bene, ma non basta. Per battere Serena devi servire bene, correre come una matta, recuperare qualsiasi cosa, avere la potenza per sovrastarle e starle vicine come un punteggio. Cioè, la Serena Williams non deve mai giocare tranquilla, allora forse. Sì. Speriamo di vedere la Williams che abbiamo visto durante l'anno, che non ha mai raggiunto un quarto di finale, che ha perso delle partite che non doveva perdere, soprattutto quella con la Cornea Wimbledon. Speriamo di vedere quella Serena, non quella che abbiamo visto in questi giorni. Beh, insomma, però a casa sua credo che, spero di essere smentito, vedremo una Serena Williams diversa, e la Pennetta non è favorita in questo match. Ha raggiunto da underdog le semifinali Shuai Peng, una cinese numero 39, la grande sorpresa, no, di questi internazionali? Assolutamente, ma cioè, è una giocatrice ormai esperta, che è nel circuito da tantissimo tempo, ma forse non aveva mai giocato così bene. Non ha lasciato un set sulla propria strada, ha battuto la nuova promessa Bencic, che è una giocatrice che dobbiamo tenere sotto osservazione, perché gioca benissimo, allenata dalla mamma della Hingis quando era bambina. Hingis era lì a guardare, a osservarla. Ha un gioco sicuramente molto interessante. Con la Peng sembrava non avere armi anche lei. Peng è solidissima, è una settimana, anzi due settimane, che forse se le ricorderà per tutta la vita, però che la vedo sfavorita con la Wozniacki. Senti, un'ultima cosa, Barbara Rossi, Federer ha vinto, ha battuto lo spagnolo Batista 3-7, va ai quarti di finale anche per Berdych. Come leggi il torneo maschile? Allora, incredibile da dire, all'inizio del torneo vedevamo Federer favorito insieme a Djokovic. Federer ha 33 anni, ha giocato il suo torneo in maniera perfetta, non ha lasciato nulla ai suoi avversari, tranquillamente. Ora a Monfils, e la partita che vedremo sicuramente sarà una partita molto spettacolare, assolutamente da seguire, con Monfils che ci inventa sempre qualche cosa, però vedo Djokovic favorito. Tra l'altro oggi c'è una partita bellissima questa sera, Djokovic-Murray, anche quella da seguire, però insomma vedo Djokovic una spanna avanti a tutti. Grazie Barbara, buon lavoro. Grazie. Ti seguiamo su Eurosport per vedere come va a finire quest'ultimo slam della stagione, ma anche e soprattutto per vedere come va a finire, speriamo non finisca adesso, l'avventura di Flavia Pennetta nella notte contro Serena Williams. 800 24 00 24, Paolo da Modena, e poi spero molti altri. Paolo, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Innanzitutto auguri e complimenti, auguri per i 2 anni e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Io volevo cambiare un attimo argomento, volevo parlare un attimo della campagna acquisti del Torino. Al di là del caso Cerci e della soluzione a Mauri, sulla quale non sono assolutamente d'accordo, ma questo importa poco. Io credo che purtroppo la campagna acquisti del Toro non è soddisfacente, perché nella prima di campionato, se devi giocare con Maksimović a destra e Darmian a sinistra e con Gazzi centrale, vuol dire che non hai comprato un terzino sinistro, o che non hai un terzino sinistro a disposizione nonostante la campagna acquisti sul quale ti puoi fidare, e non hai comprato quel centrale di centrocampo che invece la squadra ne aveva bisogno. Al di là del discorso delle punte, che sostituire Immobile e Cerci, i 35 gol e tutto il resto, che ci sta tutto, però insomma lì possiamo lasciare come dire, la possibilità. Ecco, volevo un commento su questo da parte tua. Non sarei così pessimista sul mercato del Torino. Il centrale di centrocampo era un problema anche lo scorso anno. Secondo me il problema è proprio in questo momento avere perso le due superstar della stagione passata. Quagliarella a me piace molto, secondo me è una scelta eccellente. Amauri insomma è un giocatore che a me sembra in calo, mi sembra un giocatore in declino. Certamente può essere utile, un lottatore, però il Toro lo vedo un po' meno forte rispetto all'anno scorso, proprio perché ha perso le sue due superstar. E d'altra parte era impossibile trattenerle per motivi prettamente economici, perché in parte era anche giusto monetizzare dal punto di vista di Cairo la grande stagione che hanno fatto l'anno scorso, e dal punto di vista di Cerci io capisco, aveva la voglia di andare via e non è stato trattenuto. A proposito della cessione di Cerci e dell'arrivo di Amauri, possiamo sentire Cairo cosa ha detto su Cerci? Ma diciamo che io Cerci sapevo che lui voleva andare da un'altra parte, me l'aveva chiesto, mi ha mandato messaggi durante l'estate. Questo è un eufemismo, diciamo. Sì, me l'aveva chiesto, no, con molta educazione, però anche con molta fermezza. E mi ha mandato messaggi anche durante l'estate, sempre educatissimi, ma con l'obiettivo di poter lasciare il Toro per andare a fare un'altra esperienza, come è legittimo da parte sua. Io ho sempre detto che non avrei mai voluto tarpare le ali a Cerci e quindi sapevo che questa era la sua volontà. Poi non era così scontato che lui andasse via, anche perché l'offerta giusta per Cerci è arrivata all'ultimo giorno. Prima tanti pourparlers, tanti ragionamenti fatti, ma non un'offerta adeguata per lui. E poi quell'ultima che è arrivata il lunedì primo di settembre invece è cresciuta del 50% rispetto alle precedenti, e col giocatore desideroso di andare all'Atletico l'abbiamo accettata. Quindi questa è la ragione. Mi sembra che la spiegazione di Cairo non faccia una piega, no? Beh sì, caro ascoltatore, Cerci superstar, ma lascia perdere. Cerci superstar nel Torino l'anno scorso, se non erano le due superstar del Toro, Cerci e Immobile, non sto dicendo che è Maradona, sto dicendo che nel Torino dell'anno scorso c'erano due grandi stelle che hanno fatto una stagione meravigliosa e si chiamano Cerci e Immobile. Mi sembra nei fatti, mi sembra pura cronaca. Invece sull'arrivo di Amauri, arrivo che ha suscitato da parte di molti tifosi del Toro qualche perplessità, Cairo ancora. Io credo che sia un giocatore che ha una grande esperienza, ha fatto quasi 100 gol in Serie A, ha moltissima voglia di venire al Toro, credo che abbia anche voglia di fare qualche scherzetto, qualche sassolino magari, perché no, anche in un derby. E insomma credo che sia un giocatore che ha una grandissima voglia di fare una grande stagione con il Toro. L'abbiamo preso per questo, l'ho conosciuto ieri e mi ha fatto una notevole impressione. È un giocatore anche di una fisicità incredibile che credo che possa piacere ai tifosi. Quindi questa è la presentazione da parte di Cairo di Amauri. Sempre per restare in questo ambito, chi arriva, chi se n'è andato. Ha parlato anche Alessio Cerci, che è andato, come sapete, nel club campione di Spagna e vice campione d'Europa, quindi male non è cascato di sicuro. Sul suo nuovo club Cerci ha detto queste cose. Sicuramente è impossibile non conoscere la storia dell'Atletico negli ultimi anni, perché soprattutto l'anno scorso che ha vinto la Liga meritatamente, e sappiamo che nella Liga c'è delle squadre molto forti come Real Madrid e Barcellona, quindi è un grandissimo traguardo. Poi arrivare in finale Champions League sfuggita all'ultimo minuto proprio, quindi per me è un onore essere qui. È una squadra in continua evoluzione, una squadra che vuol vincere con un grande progetto, quindi sono molto orgoglioso di essere qui. E io sono molto orgoglioso di salutare Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Molto orgoglioso. Buon pomeriggio. Ciao Phil. 2 anni tutti convocati, ce li portiamo tutti sulla pelle, nel cervello soprattutto. Anche con Volentieri. Te. Senti una cosa, Cerci l'Atletico, mi sembra un bel matrimonio, mi sembra il giocatore giusto in quel contesto, e mi sembra anche un giocatore di cui l'Atletico aveva bisogno. Sì, sicuramente, io spero che faccia bene, perché guarda, io lo allargherei un po' il discorso. Cerci ha 27 anni, ha esordito in Serie A a 16, quindi ci ha messo 11 anni per arrivare in una squadra, diciamo, di grande o grandissimo livello. Sì. Con tutto, diciamo, giocatore caratterialmente difficile, però, esatto, che ha bisogno di un ambiente strano. Per lui è perfetto, perché col Ciolo, col Mono Burgos, col profe Ortega, che è il preparatore atletico, lì non si sgarra. Cioè, se sgarri, finisci fuori rapidamente. O magari ti piglio pure un ceffone dal Mono Burgos, che non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. È la situazione giusta. Lui, a me è piaciuta la lettera che ha scritto, nel senso, onesta, non si è nascosto, vuole dimostrare, no, di non essere una testa calda, no? Lo scrive lui stesso, e ha trovato per me la situazione giusta, la squadra giusta. Io spero che faccia bene, però perché qui voglio dire, c'ha 27 anni, non è un ragazzino, se ne aveva 21, dice, vediamo un po', è un po' come il discorso che faceva Raiola con Balotelli, cioè, sì. non è più così giovane qui, o ci si mette in riga o si fa, se no è chiaro che Cerci potrà sempre trovare posto in altre squadre, no, di medio livello. Qui finalmente si misura con una realtà, certo, di massimo livello, campione della Liga e a due minuti dalla Champions League. Sì, no, ma guarda, come giocatore non lo discuto, a me piace da morire e credo sia funzionale anche a quel disegno, sì, lì. L'unica cosa, serve. No, ma ti dico, l'unica cosa sono queste perplessità caratteriali, perché ricordi l'avventura di Cerci alla Fiorentina, ondivago, e poi al Torino ha trovato la sua dimensione con Ventura. All'estero gli italiani migliorano a tutti i livelli, qualsiasi cosa facciano, secondo me gli italiani migliorano anche nel comportamento, anche i tifosi migliorano all'estero, sono più bravi, quindi speriamo che questo lo possa aiutare. Io sono convinto, per me ha fatto la scelta giustissima, non giusta, la squadra è perfetta per lui e adesso ci deve mettere del suo, certo, in senso chiaro, positivo, chiaro. Io lo spero tanto, insomma, noi di italiani io difendo il nostro Fausto Rossi. In Spagna non abbiamo nessuno, mi sembra strano, nessuno viene a misurarsi con una... Sì, adesso abbiamo anche Pio Vaccari, però appena arrivato, insomma, vediamo come va a finire. E Alessio è arrivato in una realtà enorme, cioè la sua prima partita, se tutto va bene, è il derby del Bernabeu. Sì, derby del Bernabeu, che sarà mica male, perché da quelle parti cosa dici? Tira un'arietta che te la regalo. Vabbè, sì. Guarda, io ho visto tutto. Senti, Phil, mi fanno dei piantini, dei cenni disperati. Hai un attimo, devo andare alla borsa. No, stavolta la borsa. Alla mezza c'è la borsa, così poi parliamo con calma di questo argomento. Il Cristiano Ronaldo che dice: ma scelte del club, io avrei fatto in maniera diversa. Mi sembra la sconfitta nell'ultima partita, arietta non bellissima. Convocati. Tengo mi opinión muy clara, y, pero como debes calcular, yo no puedo decir siempre lo que pienso, porque si no mañana viene a preparar la capa del periódico, no, la portada, y no quiero. Pero si fuera yo a mandar, a lo mejor no hacía así, pero cada uno tiene su opinión, es libre de decir lo que piensa. Si el presidente piensa que la mejor para el equipo fue contratar a estos jugadores y dejar salir los que salieron, tenemos que respetar y apoyar su decisión. Va a cambiar, jugadores distintos, pero puede cambiar para mejor o para peor, es fácil. Filippo Maria Ricci, questo era Cristiano Ronaldo, cosa ha detto? Lo so, dice, è molto educato, prima cosa, prima mettiamo subito le cose in chiaro, molto educato, non posso parlare perché sennò domani finisco in prima pagina c'è finito lo stesso. Certo. E lui ha detto, dice, no, magari se ero io il presidente le cose le avrei fatte in maniera diversa, però bisogna dire, con tutto il rispetto del caso, abbiamo un presidente, fa le sue scelte, dice, forse non avrei venduto i giocatori che abbiamo venduto e non avrei comprato i giocatori che abbiamo comprato. Più chiaro di così, ma io per questo a me piace Cristiano Ronaldo. Certo. Abbiamo già parlato altre volte, però Cristiano Ronaldo, appunto, con educazione, con tranquillità, però dice quello che pensa, sa di poterlo dire, giustamente, e ha le sue ragioni. Cioè, questi al povero Carletto gli hanno smontato la squadra. Sì. Ma senti, ma prova a leggerlo anche da un'altra prospettiva. Hanno conquistato la decima, c'erano giocatori che erano lì da diverse stagioni, c'erano altri giocatori come Di Maria che erano facilmente monetizzabili. Non puoi fare una rosa di 50 giocatori, se no Carletto diventa matto. Insomma, può essere anche una scelta ragionata. Prima mi piaceva lottare Piantanella, no. Se l'avessero fatto all'Inter dopo la vittoria della Champions League, magari avrebbero avuto una storia, un corso diverso. No. Allora, il problema non è ragionata, tutto lì. Il tuo discorso non fa una piega, però questa non è una scelta ragionata. Perché? Perché Xabi Alonso se ne va via quando? Credo, il 27-28 di agosto. Sì. E quindi là di ragionato, io ho parlato con lui, insomma, non ci vedo tanto chiaro. Di Maria l'hanno trattato malissimo, ma è un anno che lo trattano male. E alla fine gli comprano, cioè prima gli comprano Bale, che giocava al posto suo, e lui che fa? Ancelotti se lo inventa, lo cambia dall'ala destra, diciamo, a interno sinistro, e trova la quadratura del cerchio e funziona. Poi gli comprano pure James. Quello fa due conti e dice: io qua non gioco mai. Guadagnava 3 milioni stipendi da Serie A, sì, da Liga, sì. Diciamo questa, buttiamola lì. E non gli hanno voluto rinnovare il contratto. Rinnovano chiunque, rinnovano pure Modric, che non aveva nessun bisogno perché aveva ancora il contratto per 3 o 4 anni. E vuol dire che di programmato non c'è nulla. Poi dopo, attenzione, economicamente è una bomba. Perché appunto, l'hanno preso bene dalla gestione di De Maria. Allora pensa pure quando vendi Morata a 20 milioni e ti prendi Cicerito Hernandez in prestito a 1 milione. Sì, certo. Perché è un colpaccio. Certo. Mettiamola così, no? Quindi lavorano bene in quel senso. Però dal punto di vista della squadra, tu dici una mega rosa, non era tanto grande, perché adesso sono a corto di giocatori. Cioè, adesso si è fatto male che dica, 6 settimane fuori. Ma voglio vedere, cioè, come fanno, perché l'altro giorno Ancelotti, quando ha preso quella scoppola a San Sebastiano, dove l'anno scorso stavano 4-0, e dove qui all'undicesimo 2-0 hanno perso 4-2, lui giocava questo, ha provato sto 4-4-2 con Isco a sinistra, James a destra, e gli hanno infilati da tutte le parti. E lui deve ritrovare l'equilibrio per una squadra così complicata, dove c'hai quelle tre pedine lassù inamovibili, sì. E l'equilibrio è difficile da trovare. Quindi quello che il discorso che fai tu è corretto da un punto di vista formale, però non nella sostanza, perché non c'è stato nulla di programmato. Questo l'ha guardato la televisione, ai mondiali, come li abbiamo guardati tutti, solo che noi non ci abbiamo 80 milioni da spendere su un giocatore. Quello si è innamorato, sì. Dice, portami quel colombiano, quanto è 80, via. Quanto viene? Colombiano. Dammelo subito. Dammi il colombiano. Il colombiano va bene, è forte, però poi c'è la faccia pulita, è più bello di Di Maria sicuramente. Sì. È un bruttino, povero, il Fideo non è tanto galattico fisicamente. Però qui adesso poi con Ancelotti è un casino, perché Ancelotti cosa succede? No, la parte poi forse che più ci interessa a noi. Anche rispetto ai giocatori, adesso i giornali spagnoli attaccano Ancelotti per, diciamo, lo attaccano perché dicono è un presidenzialista. Ovviamente tirano poi il suo passato, no? Sai, ma è vero. Berlusconi. In parte è vero, eh? È un aziendalista, ma lo dice lui stesso. Però, in parte, però è peggio, perché in realtà Carlo è abbastanza incazzato. Cioè, ce l'ha con non gli va bene questa situazione. Però, giustamente, per amor di squadra, che poi quando Sergio Ramos pacchetta poi Ronaldo, dice sì, magari ha ragione, però qua siamo a Real Madrid e ci sono delle regole da rispettare, è sì. Lo stesso discorso che fa Ancelotti. Però Ancelotti non è che gli va tanto bene, ha già sopportato l'anno scorso, a un certo punto lo chiamavano il gatto i dirigenti del Madrid, perché c'era 7 vite, perché il presidente lo voleva cacciare ogni due settimane, dice beh, mo questo lo cacciamo via. Quindi è diventato il gatto, non come Benzema, capito? Il gatto per le vite. E già sopporta tutto questo, lo volevano cacciare fino al 92esimo della finale della Champions, era fuori, adesso sì. Vince la decima, e adesso siamo da capo. E in più, appunto, i giornali, e c'è un problema anche a livello di giocatori. Lui con Di Maria ha fatto veramente un discorso presidenzialista. Arrivato in sala stampa a dire no, ma questo non ci serve, non abbiamo bisogno di lui, che non è vero. No, non è vero, anche perché uno come Di Maria io lo tengo tutta la vita, è un giocatore che ma l'ha dimostrato l'anno scorso, no, quanto è forte, quando Ancelotti gli ha trovato un ruolo diverso e lui ha saputo essere decisivo, ma no, ma è evidente. Quindi adesso Ancelotti è in una posizione difficile, anche da una parte con la stampa, con i tifosi, e dall'altra con gli stessi giocatori. Cioè bisogna, dopo che, questo vuol dire, ci sta. Ma è paradossale se pensi che 100 o 103 giorni fa hai vinto la Champions. Sì, con Di Maria miglior giocatore della finale. Esatto. certo, e poi Di Maria è stato decisivo, cioè grandissimo nelle partite, non so, col Bayern Monaco. È un giocatore da partita decisiva, Di Maria è un super giocatore, è inutile, Coppa del Re, è inutile, esatto, aggiungere altro. E poi, ma c'è Xabi Alonso che se ne va via così, ma che sta succedendo? Uno dice, ma che succede lì? Xabi Alonso è super madridista, è andato da Guardiola, si odiavano, cioè, era il simbolo del murignismo. Sì, sì, questo, sì, mi ricordo bene. Questo, esatto, ricordo bene. Finisce al Barcellona. Ma tra l'altro all'improvviso, senza avvisare, una cosa così, da un giorno all'altro, ok, Xabi Alonso non c'è più. Sì, io ho parlato con lui, mi ha detto no, ma in realtà se ne parlava da un po', è stata una cosa che non è vero. Sotto traccia. Non è vero. Ma quale sotto traccia, gli ho detto? Testuale. Dico, senza l'accento romano, però più o meno così. Ma quale sotto traccia? Cioè, comunque non si spiega, è un giocatore fondamentale. Allora, può aver paura che gioca meno perché è arrivato Cross, ma non è vero, avrebbe giocato perché sono giocatori diversi, ma poi va via Di Maria, cioè tu c'avevi un 4-3-3 che il fulcro è a centrocampo dove giocavano Modric, Xabi e Di Maria, se ne sono andati via 2-3. E come fai? C'hai questi due giocatori, questo James e questo Isco, che tra l'altro si assomigliano, è gente che non, cosa fai? Compri uno da 80 milioni per insegnargli a difendere. No, vabbè, ma non è la prima volta. Mi piacerebbe una cosa: Bale più arretrato, quella dovrebbe essere, solo che Florentino non lo vuole più arretrato. Ma Carletto la soluzione la trova, dai, ha un'ottima scuola. Bene, Lunghi. Come alla fine si fa il tipo per l'Italia, speriamo che la trovi. Lui ha una lunga esperienza da questo punto di vista, col presidente che ti allunga il foglietto, dai, fa bravo. Grazie, Phil, alla prossima. Ciao Filippo Maria Ricci. Ciao. Anna, provincia di Venezia. Buongiorno Anna. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. E auguri per i 2 anni di tutti convocati. Grazie mille. Ascolti, io sono una vecchia signora. Ho sempre seguito il calcio fin da bambina. Sì. Quando ancora giocava il famoso Lido Vieri. Sì. Ecco. E con gli anni il nostro campionato prima si chiamava Campionato Italiano Calcio. Sì. Adesso si chiama solo Campionato Calcio. Sì. Ecco, perché questo nome italiano non si usa più? Perché forse non è più italiano, in quanto nelle nostre squadre giocano tutti stranieri. Non che io sia razzista, ben lontano da me, però insomma ci abbiamo tanti giovani. Bisogna valorizzare i giovani. Tanto abbiamo fatto una figuraccia brutta ai mondiali. A questi mondiali e gli altri mondiali. Cerchiamo di valorizzare i nostri ragazzi. Sì, sì. Ce ne sono anche di bravi. Ce ne sono anche di bravi. Non, l'unica cosa è non prepariamogli la pappa, cioè nel senso non serviamogli la pappa però pronta dicendo ok, chiudiamo tutto per far giocare i nostri, così almeno possono crescere senza far fatica. Ma sa, signor Anna, non si chiamerà più Campionato Italiano di Serie A, solo Campionato di Serie A, però questo discorso vale anche in molte parti all'estero, perché lei sa benissimo come il mondo sia andato in questa direzione, e per i professionisti, per i liberi professionisti c'è, cioè, libera circolazione all'interno dell'Europa, insomma ci sono delle leggi da rispettare, quindi una forma di protezionismo che può essere praticata nei confronti degli extracomunitari, cosa che avviene, non è possibile nei confronti di liberi professionisti che arrivano dall'estero. Poi il resto sono scelte aziendali, sono scelte dei club. Io penso che si debba lavorare in questa direzione, si possa lavorare in questa direzione, che mi fa molto invidia il sistema che c'è da ogni altra parte all'estero, al di sotto della Serie A, Serie B, Serie C. Quindi torniamo a quel discorso di forma dei campionati, lì sì che possiamo utilizzare quei campionati come laboratorio per i nostri giovani, che possono crescere soltanto giocando con i grandi e non con i campionati giovanili, eccetera eccetera. Questo è un discorso lungo e profondo, però credo che la chiave sia quella. Io penso invece che al massimo livello professionistico possibile, quindi in ogni campionato, in ogni sport, debbano giocare i migliori che si trovano in giro, a condizioni di mercato e a condizioni di libera concorrenza. Questo è ciò che penso io. Claudio da Lodi, buongiorno. Claudio, sì, buongiorno. Prima di tutto auguri. Grazie. Poi, visto che lavoro in via Monterosa a Milano, se mi lasciate una fetta di torta, domani vengo a prenderla. Volentieri, averla? No, gli scherzi. Avercela. Ci ha pensato nessuno. Volevo fare due brevissime osservazioni. Allora, domani sera c'è l'esordio della nazionale con Antonio Conte, che è una persona con un carattere molto forte, che saprà gestire le attese che ha la nazionale, visto che lui prima era alla Juve, quindi ogni settimana era in tensione. La seconda breve osservazione è Balotelli, vabbè, Balotelli è un giocatore, è un cavallo matto, però forse una possibilità. Credo che gliela darà. Siamo soltanto al primo giro, ripeto, è squalificato per una partita, poi sono state fatte altre scelte e magari vorrà vedere anche giocatori tipo Zaza che in nazionale non hanno ancora giocato. Certo, la convocazione di Quagliarella all'ultimo momento chiamato all'ultimo momento Quagliarella, che non aveva esattamente uno splendido rapporto con Conte e che ha passato l'intera stagione scorsa in panchina. La stessa convocazione di Giovinco, che non era esattamente un titolarissimo della Juventus, questo può essere oggetto di discussione, ma magari lo stesso Conte non ha bisogno di vedere Balotelli, di vedere quello che gli può dare Balotelli in questa situazione, oppure possono esserci altre ragioni. Io credo che se Balotelli giocherà su buoni livelli, su livelli che gli competono, al Liverpool Conte lo convocherà. Non vedo grandi preclusioni, anche se, torno a ripetere, non mi sembra che sia il prototipo, caratterialmente il prototipo del giocatore che piace al nuovo CT della nazionale. Tutti convocati. Alza questo pallone per Lanza, il pallone è in campo sulla toccata da parte di Lanza, perdiamo anche il secondo set 25-20 come il primo, subiamo dalla nazionale francese, adesso veramente dobbiamo fare l'impossibile, giocare una grande partita senza più nulla da perdere. Gemiela cercare l'attacco di un gapetto, il muro dell'Italia ci porta al tie break, ci ricover, ci porta al tie break, 25-16, massacriamo la Francia in questo set, ribaltiamo una situazione e ci andiamo a giocare questa partita all'ultimo set. Palla insidiosa, Baranovic, l'attacco dello zar lo mette giù e l'Italia si va a prendere una partita grandiosa dopo un grande recupero, dopo un grandissimo recupero. La vince 3-0, però diciamo che è stato già abbastanza vincere 3-2 per come si era messa, cosa dici? Ah beh, assolutamente, diciamo che ci siamo svegliati tardi in questo mondiale e secondo me non ci siamo neanche svegliati del tutto, quindi ci portiamo a casa questi due punticini buoni come il pane e un po' di morale, visto che la vittoria fa sempre morale. Adesso ci prendiamo questa vittoria e poi penseremo al Belgio, che è un'altra partita da vincere e da giocare, e quindi poi alla fine del girone faremo i conti e vedremo dove saremo. Mondiale di volley in Polonia, ieri l'Italia ha dovuto toccare la fine con le mani, con tutte e due le mani la fine della sua corsa, sotto 2-7-0 contro la Francia, una partita da vincere a tutti i costi, e invece poi Berruta ha cambiato tutto, la squadra ha cambiato faccia, sono cambiati gli occhi, l'Italia ha vinto 3-2 con la Francia e rimaniamo in corsa. Dato che oggi è festa, non ci facciamo mancare niente. Andrea Zorzi, ciao, buongiorno. Ciao, ben ritrovati. Ciao, come stai? Bene, bene, in partenza anch'io per la Polonia. In partenza anche tu per la Polonia, lo so. Hai rischiato di arrivare in Polonia a babbo morto. un pochino sì, però avete fatto sentire nel vostro splendido montaggio che c'è una chiave comune, ed è prendiamoci questa vittoria, non esaltiamola più di tanto, rendiamoci conto che siamo arrivati molto molto vicini alla sconfitta, però molte volte se ne è parlato anche con te di come andare così vicini a bruciarsi le penne, se non ci rimani può essere una buona opportunità per fare poi un grande torneo, quindi parliamo di questo. Non possiamo certo pensare se avessimo vinto con l'Iran, se avessimo fatto tre punti con la Francia. È un'Italia che ha fatto un po' di fatica, che ha avuto anche grazie all'aiuto della Francia nel terzo set la possibilità di risollevarsi da una situazione molto molto complicata, e adesso guardiamo avanti in un girone che loro definiscono il nostro girone della morte, in cui l'Iran è primo con 5 punti, squadre forti come Stati Uniti, Francia l'abbiamo vista ieri, Belgio squadra pericolosa, però questo è effettivamente il girone più complicato. Voi sapete che per la formula un po' complessa le prime 4 squadre di ogni girone passano, ma si portano dietro i punteggi, sì. E quindi insomma un po' cervellotico, ecco perché potrebbe essere così pesante questo inizio un po' balbettante degli italiani. Sì, Andrea, come al di là di questo, come l'hai vista ieri la nazionale italiana? Beh, terrificante esordio con l'Iran, su quello sì. Penso possiamo essere tutti d'accordo. Ieri sei sotto 2-7-0 con la Francia, tu dici bene. Se trovi dentro di te l'energia, la forza e il coraggio di rimontare, e Berruto ha cambiato tutto, ha smontato la squadra, ne ha fatto una diversa lì per lì. Guarda, la verità, l'unica cosa che non ho visto, che non mi ha convinto fino in fondo, è che non ho proprio visto gli occhi della tigre con la convinzione incredibile. Ho visto questi ragazzi che sono migliorati certamente rispetto all'inizio, ho visto che hanno saputo sfruttare benissimo l'aiuto che la Francia gli ha offerto, ma non ho visto in loro quella convinzione determinante che è necessaria per andare avanti fino in fondo. Spero arrivi, però c'è ancora un bel passettino da fare per essere competitivi per le medaglie. Stati Uniti come li vedi? Benino, loro è una squadra che io ho sempre amato molto, soprattutto perché è la squadra che riesce a fare del loro meglio praticamente sempre. Sì. Vengo da questa vittoria impronosticata della World League a Firenze contro il Brasile, hanno alcuni giocatori veramente fenomenali, hanno trovato questo Sanders che è un ragazzo mediamente basso, solo 1,90 m, ma con due pistoni al posto delle gambe, sì. Uno molto bravo, hanno risolto il problema del palleggiatore, Christensen è veramente molto molto forte. In questi giorni li ho visti un po' meno motivati, ma non è trascurabile il fatto che è un mondiale che dura 13 partite, quindi gli americani in questo senso potrebbero, come dire, soffrire un po' di meno una partenza media, credo che abbiano la forza per andare avanti. Prima di salutarti Andrea, voglio invece un tuo commento su un macro tema di questi giorni, settori giovanili, ricambi generazionali e gli italiani che non giocano e giocano gli stranieri, e questo è un discorso che si fa in ambito calcistico, ma può essere così, traslato sulla pallacanestro, sulla pallavolo la situazione è un po' differente. Perché? Perché per ragioni regolamentari la pallavolo ha potuto disciplinarsi in maniera diversa, proteggendo in qualche modo i giocatori italiani, concedendosi solo due stranieri, eccetera eccetera, questo per ragioni regolamentari. Tu da che, come ti collochi in questo discorso? Qual è la tua idea su questo discorso? Dunque, io non credo ci siano soluzioni definitive, perché come tu hai accennato prima in trasmissione, non vogliamo neanche fare la riserva indiana, non vogliamo proteggere i nostri ragazzi giovani, sì. Per farli giocare, anche perché anche dal punto di vista economico potrebbe diventare complicato, se devi avere giocatori italiani costano di più e via dicendo, quindi un po' di libertà, di competizione vera non fa mai male. È vero però che se poi alla fine vai a prendere qualunque altro giocatore perché hai la sensazione che venendo dall'estero sia già più bravo e ti dimentichi che in casa hai delle buone opportunità, anche questa è una stupidata. Però come al solito siamo un po' in mezzo. Io credo che fare dichiarazioni di intenti sia sempre un po' sbagliato. Se si parla troppo dei giovani c'è effettivamente un problema, ma non c'è una soluzione vera e propria. Soprattutto l'idea è che noi vorremmo avere dei giovani, che siano giovani, che giochino da grandissimi esperti. Appena sbagliano ci arrabbiamo moltissimo e certamente questo non è il modo per fare quei passaggi e rendere quindi i giovani, farli crescere. Sì. Come al solito, bastone e carota. Bastone e carota è necessario. Però anche vedere giocatori italiani, vale anche per la pallavolo, è già successo, giocatori italiani di primo livello che vanno a giocare all'estero, a me non dispiace. A me piace, a me piace. Ma uno dei miei più grandi dispiaceri è che negli anni 90 il nostro campionato è stato di gran lunga il più bello, il più interessante, il più ricco, e non c'era neanche la possibilità di pensare di andare a giocare all'estero, perché si veniva considerati quelli che vanno a svernare, a prendere i soldi all'estero. Però l'esperienza all'estero è straordinariamente utile. Non dimentichiamo che nella pallavolo, ma non solo, molte nazioni hanno vinto a volte con atleti che hanno fatto esperienza fuori, sono di fuori a crescere, perché sei straniero, perché c'è la responsabilità di essere lo straniero, esci un po' dalla pappa e dalla pasta e trovi una soluzione. Certo che in qualche modo è necessario tenere insieme queste due parti. Se il tuo campionato perde di interesse troppo, può essere pericoloso per il movimento. Fare esperienze all'estero è una grande opportunità e siamo alle solite, dipende un po' come la vivi e quali sono le scelte. Bastone e carota, come ti dicevi, un po' di attenzione, ma non facciamo diventare viziati i nostri ragazzi giovani. Bravo Andrea, come sempre. Vediamo se in un minuto e mezzo riusciamo a rispondere ad Antonio da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno Carlo, auguri. Dica, grazie. Mi avete un po' risposto. Io ho visto ieri la prima mia partita di una nazionale italiana di pallavolo, sì. E voi avete fatto un collegamento, cioè un Ampex, in cui parlavate di tre giocatori, tutti e tre con un cognome impronunciabile e quindi ritengo non italiani. Ma perché giocano questi signori nella nostra nazionale? Andrea? Sono italianissimi, con un cognome Zaitsev, Baranovic, Travica o Kovar. Sono italianissimi perché sono figli di giocatori polacchi o russi che vennero in Italia negli anni 70, sono rimasti a vivere in Italia e questi ragazzi sono comunque nati, cresciuti in Italia, stati in Italia, sono uno romano, uno milanese e quindi non si tratta neanche di oriundi. È vero che il loro cognome è quello dei loro genitori che vennero da quei paesi per giocare in Italia negli anni 70. Un po' difficile spiegare queste cose, eh? Anche perché adesso se andavamo avanti saltava fuori, ma Barotelli italiano, tu lo sai che finiva così. Andrea, grazie, ti abbraccio. Fate bene. A presto. Ragazzi. Ciao Andrea Zorzi. Oh, ci vediamo qui ragazzi, ma domani torniamo alle 2, tutti convocati, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Scattone in redazione, visto che non ho sbagliato. Ciao a tutti. Prova il sinistro! Del palo incredibile! Vengo subito al punto. La nostra stimatissima prima guida, Fitti Merda Paldi, ci ha scaricati per un altro team all'ultimo minuto. La Copper Merda Succa. E ci serve un rimpiazzo. Cercate un pilota o un rappresentante di spazzole. Vogliamo avere successo. Anch'io. Ma questo vuol dire battere Lauda, non fare il pagliaccio per gli sponsor. So che non vai d'accordo con Nicky. Come tutti del resto. Pensi di poterlo battere? Lo batto con una McLaren. È l'unica macchina veloce quanto la sua Ferrari. Per questo sono qui, a pregarvi. Farò quello che volete. Metterò la cravatta, sorriderò per gli sponsor, dirò le parole giuste. Lo posso battere, fidatevi.